E ci siamo, ci siamo. È la notte di Halloween. Siamo qui, siamo qui. Ci siamo al convento, signori. Sono tornate. Siamo noi, le ortofrutticole. Pensavate di esservi sbarazzate di loro. Invece, il trio Sutura, ecco. Il trio Sutura. Ci hanno chiamate così, sì. E come vi chiamate? Giulia. Serena. Nicole. Il trio Sutura. Sì. Siete tornate con una in più. Esatto. Come? No, no, no. Eravate solo voi due. Eravamo solo noi due. Vabbè. Occupata. Sì, ma io devo dare man forte perché lei ci sta aiutando a trovare senza il moroso. È dura. Perché siete così disperate, ragazzi? Vabbè, arriva, cioè andiamo avanti con gli anni. Non ci voglia nessuno, ma no, non ci piglia, ci vogliono tutti, ma non ci piglia. Esatto. Nessuno. E perché la vostra scella sa di cipolla? Di aglio. Tratto Serena si è appena annusata. No, non è Serena, nel frattempo Serena è svenuta, vorrei dire. È la Giulia che si annusa. È la Giulia che si annusa. Io profumo di di cosa? Di chi? Louis Vuitton. Di Louis Vuitton. Allora non è la scella. Cos'è? Saranno i piedi. Attenzione. No, no, io ho paura, Sandrino. Ho passato dei cuffie. Attenzione, ragazzi. Momento fetish nell'intervista. Sì, lei, ci sono amanti dei vi piedi. Vi dico un piccolo segreto. Sì, dicelo. Alla signorina Giulia, che ha lasciato il numero, ama farsi succedere il dito del piede. Il ciuccio. Davvero, Giulia? Il pollicione. Beh, questa cosa potrebbe avere un sacco di chiamate. Chiamate. Tra l'altro Giulia I ha lasciato feticisti. Il numero di cellulare. Ma lo daremo. Messo il nostro numero, scusa. L'ho messo sul nostro portale. E solo chi avrà il coraggio di ascoltare questa intervista da brivido. Quindi nessuno. Pensate che brividi farsi ciucciare il pollicione dalla signorina Giulia. Ah, perché Giulia ciuccia il pollicione. No, o il contrario. Scusate, lei adora farsi ciucciare il pollicione. Wow. Ho già i brividi. Quindi Giulia pollicione. E Nicole invece che cosa adora? Dici un dai, po' Serena. Lei non mi conosce. Ah, non ti conosce. Senti già la musichetta inquietante. Stiamo già inquietando. Alla Nicole piace farsi ciucciare le orecchie. Le orecchie. È una parte sexy sensuale. È per quello che a forza di ciucciare gli sono venute le orecchie a punta. Esatto. Tipo Star Trek. Ma tu ridi e scherzi. Ma io sai che comunque ho un'orecchia quasi a punta, veramente. Davvero? Ho sparato a caso. Sì. Allora, chi è che ti ha ciucciato l'orecchio? Così tanto. No, quando sono nata. Ti ciucciavi l'orecchio? Comunque, ragazzi, dai, su via, mandateci un messaggio. Dai, non si anda a buttare via. Cioè, abbiamo ancora le nostre potenzialità. Sono molto carine. Una è mora e una è bionda. Diciamo i loro punti di forza, Serena, dai. Ma allora, Nicole è una gran sportiva. Ha un fisico tonico. Tonica? Sì. La Giulia, un po' meno. Un po' più schiappa. Però è comunque carina. Comunque carina. Sei offesa. Esatto, stavo migliore... per dire io migliori amiche. Migliore amiche. Ma dai, perché Halloween la sto buttando sul ridere. Io in tutto questo non c'entro niente. Esatto, è più sul terrore che dovremmo buttarla. Allora, vi parlo io di me. Io sono sportiva, tonica. Ma dove? Che fai 20 minuti di attività e pensi di aver fatto la maratona? Ti vogliono tutti bene, Giulia, eh? Vedo che hai una stima. Ma da, ragazzi, la Giulia ha un bellissimo carattere. È dolce. È veramente sincera, gentile, empatica, altruista. Si sta commuovendo, eh? Vedo Giulia cioè, allora, no, che fai? A parte che ha un bellissimo fisico, è magra. Sì? Alta. E basta. No, devo fare un appello. Appellati al microfono. Ragazzi, lo dico a tutti, ragazzi, sopra 1,75 m, sotto no, eh. Ma perché parli in punta del microfono? Devi parlare. Ragazzi, alti. Ecco, brava. Minimo 1,75, più bassi non ne voglio. Ecco, vedremo una marea di ragazzi coi tacchi venire qua pur di conquistare Giulia. No, è vero, anch'io voglio i ragazzi più alti. Sono due ragazze splendide, ma perché le lasciate così? L'ultima volta nessuno gli ha scritto. Cioè, no, davvero. Fatevi delle domande. Io sono un po' delusa, cioè, anch'io sono molto delusa. Sono due ragazze speciali, splendide, dai. Mi sono andata in depressione. Ma simpatiche, fatevi poi avanti. Sandrino, di qualcosa. Cioè, due mesi Sandrino, fa, quando siete venute. Sponsorizzaci, per piacere. Allora, signori e signori, io vi consiglio fortemente queste due ragazze. perché hanno una passione per il reparto ortofrutticolo. Io sono per questa voce di Sandrino, mi vengono i brividi. Davvero. Anche a me. Sei da brividi, Sandrino. Quando faccio la voce brividi. Mi vengono i caliente. No, non cantare in spagnolo, Giulia, che non lo sai. No, è vero, cantiamo una canzone che vi in vedo spagnolo, mi metti un reggaeton. Da, in onore del nostro amico che ma è andato a Madrid. Ma io ho vissuto l'anno a Valencia. Gliela dedichiamo? Sì. Ma sai che andiamo a trovarlo. Dai, lo salutiamo. Andiamo la prossima, fra due settimane andiamo tutte a trovarlo. Sì, che bello. Dai, allora mandiamoli un messaggio. Caliente, no, ma quella è una canzone italiana. No, dai, mettimi una reggaeton, per la favore. La sapevo, io vedevo che Giulia come ti guarda, sto ascoltando, è un fan, è un fan, è già tu, l'hai preso questo, l'hai preso? Tra... Giulia, hai trovato l'amore. Tra l'altro, perché si sta togliendo le scarpe? non si capisce perché. Attenzione, sta tornando la figura inquietante. Siete pronte a salutare la figura inquietante qui dietro? Pronte? Così? Io non la vedo. Non è passata? Ciao, figura inquietante. Mandate il bacio, mandate il bacio. Niente, è andata, via la figura inquietante, si è allontanata. Metti Despacito, Despacito. Despacito, quiero verla. No, non è inglese, Giulia. Non è inglese, Giulia. Non è sempre inglese. Più padroni della lingua, queste ragazze. Abbiamo dei ragazzi che ci sono appassiti, questi. È hanno... Fede e Seba, i nostri amici. Fede salutiamo Fede e Seba, grandissimi. Ah, il cornuto. È il cornuto. Ah, eccolo, fantastico. Bello. Ditemi che non è vero. Lo sta mettendo. Io sento le canzoni. Già sono pochi. Signori, ti prego, non cantare. Dai, mettimi Despacito. Signori e signori, Giulia è posseduta. No, Giulia, dai. Non ti caga nessuno come mi sempre, Giulia. Seba, siete diventate le ragazze invisibili della radio. Una cosa dai, pazzesca. Mi metti Despacito, Sandrino. Attualmente non posso. Causa un'altra canzone reggaeton. E ho sottofondi. Ci sono ragazzi o le cuffie. Finalmente che Serena le cuffie. E allora si può. Aspetta, facciamo così. Ma veramente tutte e tre? Ragazzi, siete adoro. Tutte e tre accuffiate adesso. Adoro. È tutta un'altra cosa. È grazie tutta un'altra a Sandrino cosa, vero? Che ci ha lasciato le cuffie. Mi sono scuffiato per voi, ragazze. Dai, scriveteci a me, Giulia. Scriveteci? Ma invece Serena è fidanzatissima, giusto? Serena è troppo. Da 12 anni è fidanzata, suora, già fa figli. Ho anche due figlie. Ah, pure? Cagne sono. Ah, le stimi tantissimo. No, due cani, però. Ah, ok. Ecco. L'unica ragazza al mondo che è... Ma ti sei accoppiata con l'icantropo? Cioè no? Visto no, che siamo in tema di Halloween, questa ragazza sì, no, infatti, è True Light io no? Sono un vampiro. Sì, anche tu? Sì. E il mio amore è un licantropo, siamo venuti fuori due cagni. Perfetto, mi sembra una famiglia coi fiocchi. Ecco, fantastico, no. Ma non parliamo di me, perché... Non parliamo di te. No. No. Veramente. Veramente. Perché... Ma che tipa strana che hai, Serena, no? Siete no, perché strana. Sono altruista. Ragazza altruista. Grazie, Serena. Parliamo di me. Io sono a posto, anche se stasera il mio amoroso al muretto e... Non sponsorizzare altri posti. Non so, magari... Esatto, brava Giulia, brava. No, non essere così non pessimista, vero, dai, non essere no, così pessimista. Nel senso, non si sa mai. Nel zenzo. Sì, nel zenzo che ormai. Quindi vi do anche il mio numero, nel dubbio. Nel dubbio? Grandissima. Comunque, no, veramente, seriamente. Non è una cosa seria dai, questo. No, seriamente le mie dai, amiche. Facciamo, cioè, ci corre il tempo qua. Esatto, ragazzi, siamo arrivati a 9 minuti, E poi no, ma nel senso più generale della vita. Ah, ci corre. Ricordiamo, a quanti anni? Quanti anni siete arrivate adesso? Che io 24. 24? 19? Invece non saremo così disperate a 19. Ah no, 24 invece 27. Sei proprio... 27 Giulia. No, veramente. No, quasi 28. No, Giulia, veramente, devi fare qualcosa per te stessa. Giulia, fai qualcosa per te stessa. Me l'ho detto che qualcosa Sandrina dispera. Posso farti una domanda? Ma ti potrebbe piacere Giulia? Ma mi vedresti con Giulia? Io ti vedrei con Giulia. Ah davvero? Sì. Ah ci vedi io bene? Vedo una certa passione affinità ma, fra ma i due. Ma c'è una domanda privata a Sandrino. Ma sei rosa? Visto che siamo in radio e ci ascolta mezzo sei mondo. Sei single? Ragazze, il vostro Sandrino è fidanzato. Ah, ma con un uomo o con una donna? Ma sei un parere da zucchina? Questa... togliamo questo ma dubbio, Serena... perché no, beh, ti piace il re della zucchina, hai dormito con Mr. Dave. Insomma, quindi è una donna. Mi sa che stasera devo andare a verificare. Ragazza, veramente anche mi sto preoccupando di me stesso a questo punto. Ma guarda che ne stavo io due domande me le farei. Ho anche Giulia che si è tolta la scarpa, mi sta mettendo il pollicione nell'orecchio e io indegerrimo non riesco a resistere alla tentazione di Giulia col suo pollicione. Beh, dentro. Guarda che Giulia arriva ovunque. Col pollicione? Già siamo all'orecchio. Se me lo infila nel naso sono pensavate in altri posti, ragazze? Sandrino, dici il nome di lui o lei? Di lui o lei? Allora, inizia con la C. Chiara. Claudia. Caterina. Carlotta. Immaginate se si chiama Consuelo, così lasciamo il dubbio totale. Oddio, mia mamma mi voleva chiamare Consuelo. Davvero? Allora è segno del destino. Colpo di scena. Io, ragazzi. Sandrino, vi vedo già sposati con tre figli. Non cagnolini, però. Anche due cagnolini. Perché io sono vampiro, lei è molto allupata stasera. E quindi. Ricordiamo che possono nascere. Lupotti. Dei licantropini. Ma che bello. Ragazzi, non abbiamo salutato l'amico di Madrid, Davide! Ci manchi! Il re della zucchina! Ci manchi un sacco! Davide. Veniamo a trovarti, non si sa quando. Mi sembra una minaccia. Dimmi dove, quando, da stasera non arrivo in ritardo. Signore e signori, Giulia è posseduta e non è nessuno qua dentro. È un'entità astratta che si aggira. In realtà Giulia vuole prosciugarti l'anima. Addirittura. Giulia succhia l'energia, oltre che pollici. Ha detto che non succhia solo... No, esatto. La Giulia vorrebbe succhiare. Ragazzi, questa intervista è ai limiti della censura. Mi sento male, scusatemi. Giulia, torna su. Guarda, si è abbassata... Si è abbassata... Stiamo parlando di pollicioni. Allora, è stato bello che siete tornate, ragazze, perché a distanza di un mese ho conosciuto altre cose di voi. Scusatemi. Sempre più inquietanti. Tanto Serena è commossa, sta piangendo, ecco. Vabbè. Non conoscevo questo lato pollicione della Giulia. Vabbè, comunque vedi. Perché non lanciamo una bella canzone che posso cantare? No. Che posso cantare? Non è il karaoke, Giulia. Sei censurata, Giulia. Scusa, Giulia, esatto. Non capisci. Non capisci. Spiegali la differenza fra radio e karaoke. Sei bella, sei simpatica, hai già difficoltà. Se mi canti anche. Anche no. Anche no. Anche no. Che diventa un gran problema. Io, vedi, Giulia, non canto. Io non canto, non ci provo nemmeno, Non offenderti perché siete stonate. Non è che potete avere tutto. Sandrino, posso dirti una cosa? La cosa più brutta è stato un viaggio con mio papà che lui mi ha detto di non cantare. No, ti ha censurato il papà. Mi ha censurato mio papà. Cioè, è incredibile. Da lì ho capito che ero proprio stonata, stonata. Quando uno dice ogni scarafone è bello. Ma il papà è sincero invece, ha detto. Cioè, mi ha detto Nicola, smettila di cantare. Muovete le spalle, raga, ritmo di musica. Io non ho mai sentito i genitori di la Giulia chiederle di cantare. Ma vabbè. Muovete le spalle. Comunque ragazze, il nostro tempo è veramente... Stiamo annoiando tutti. No, più che altro muove le spalle al ritmo, ma non la vede nessuno in radio laggiù. Glielo spiegate voi. Va bene, ragazze, il tempo a nostra disposizione è veramente... Quindi il moroso non lo troviamo neanche stavolta. No, vediamo cosa il successo di questa intervista. Secondo me con la tecnica del pollicione avremo molti più ascolti. E tra l'altro vedremo una promessa della Giulia che la prossima volta che verrà, che sarà dicembre con la neve... Mostrerà un pollicione. Con l'infradito. Va bene, Giulia, promesso? Ma non serve venire con l'infradito della Giulia, è sempre disposto a togliersi le scarpe. Basta andare in bagno, ragazzi, ti faccio vedere. Quella, attenzione, Giulia è aggressiva stasera. Ragazzi, in bagno addirittura. Pollicione, ragazzi. Ecco, che noi avevamo frainteso, ma proprio leggermente. Infatti ho visto un picco di ascolti incredibile. Va bene, ragazze, mi salutate alla vostra maniera? La vostra miniera? No, che miniera? Non capisci più niente. Alla vostra maniera. È allupata la Giulia stasera. Ciao ragazzi. Mi raccomando, contattate i numeri che trovate in sovraimpressione. E non impressionatevi da questa intervista. Ciao da... Ciao. Serena. Nicole, Serena. E Giulia. Ah!